Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Peroni da Salt Peanuts. Oggi direi che il punto di riferimento sono i Bad Plus, questo trio che si è costituito ormai da molti anni. Diciamo che le prime incisioni del 2001, ma la collaborazione tra alcuni di loro quantomeno viene da ancora più lontano, cioè praticamente dall'inizio degli anni 90. E è una formazione che recentemente è stata scoperta in Italia anche da un pubblico più allargato, anche gli organizzatori dei concerti cominciano a proporre questo trio con una certa frequenza, giustamente perché in America ormai da tempo che sono considerati tra i musicisti più interessanti, più importanti su questo tipo di formazione, quella classica del piano trio. Il riferimento su questo gruppo è soprattutto su quello che fanno i musicisti come solisti. Non hanno una grande frequenza di partecipazione in altri contesti, sono molto consolidati nel rapporto appunto tra di loro, nella costruzione e nell'elaborazione dei temi che vengono proposti con questo trio, ma le collaborazioni esterne non sono frequenti, anche come leader. C'è qualche eccezione, hanno cominciato negli ultimi anni anche a cercare di proporsi con formazioni diverse, con proposte diverse, soprattutto Dave King e Ethan Iverson. Ascoltiamo, sono usciti recentemente due lavori da parte sia di Dave King che di Iverson, e molto diversi tra di loro, li ascoltiamo. Il primo che ascolteremo è quello di Dave King, che nel giro di un anno o poco più ha proposto due tipi di formazione, una con Carothers, pianista, quindi una formazione che ripete una sorta di rapporto tra pianoforte e percussione, che ha dei momenti di interesse, però devo dire che la tentazione nel cercare di rendere più rarefatta possibile la musica ne fa disperdere spesso anche quello che è una consistenza maggiore, ma questo non lo prenderemo in considerazione, mentre ascolteremo un lavoro uscito più di recente, anzi uscito da poco, intitolato Adopted Highway, dove Dave King riprende direi come uno stile certi stilemi di New York, più frequenti in New York, soprattutto che si debbono allo stile e alla leadership, in diverse occasioni, non in questa, ma alla personalità forte di Chris Speed. E questo stile che ha riferimenti sia con il rock che con un certo tipo di cool. La formazione in questo caso è un quintetto, la chitarra elettrica di Eric Franzke, il contrabbasso di Adam Linz, e poi al sax tenore Brandon Wozniak e ancora al tenore Chris Speed. Appunto, è un disco registrato nel settembre dell'anno scorso, del 2013, e il risultato direi che è molto soddisfacente. Ascolteremo tre brani, sono tutte composizioni di Dave King, che dimostra anche nei Bad Plus di avere una notevole vena creativa nella composizione. E quindi ascoltiamo quello che riesce ad esprimere in questo contesto di quintetto, quindi diverso decisamente da quello abituale. Thank you. Questo era il gruppo di Dave King, un quintetto con Chris Peed al sax tenore e anche Brandon Wozniak, poi accompagnati da Adam Lins al basso, al contrabbasso, e Eric Franzke alla chitarra elettrica. Un gruppo, un quintetto appunto, che dà modo alla musicalità di Dave King di esprimersi, diciamo, con quelle affinità che ormai si possono riconoscere nella derivazione importante che ha avuto, o dall'influenza che ha avuto il rock e la storia del rock nel suo drumming, nel suo senso della batteria, che porta peraltro anche all'interno della formazione dei Bad Plus. Il prossimo lavoro che ascolteremo, questo era un disco uscito recentemente intitolato Adopted Highway, e il prossimo che ascolteremo è un lavoro che vede una leadership condivisa, anche se poi di fatto è la leadership è di Ethan Iverson. È un quartetto questo, con Larry Grenadier e George Zorzi alla ritmica, cioè al basso e alla batteria, quindi una ritmica, come dire, di appoggio un po' da sideman presi occasionali, insomma, non è certamente una ritmica frequente per quanto riguarda Iverson. È la ritmica che ha usato per molto tempo Brad Mehldau e molti altri pianisti. Il quartetto appunto viene completato dalla presenza di Lee Konitz, un musicista col quale ha già lavorato Iverson. La cosa interessante è di questo progetto, di questo lavoro, che è intitolato Customers and Matadori, è una dedica, ma quasi una sorta di elaborazione del linguaggio del cool di Lenny Tristano. È un omaggio evidente alla musica di Lenny Tristano. Sono brani però tutti composti da Iverson, sembrano quasi delle citazioni alla maniera di, non in modo banale, non neanche in modo implicito, è esplicitamente un riferimento alla musica di Lenny Tristano, che è stato peraltro anche il maestro di Lee Konitz, col quale Lee Konitz appunto ha collaborato per dar vita a un notevole numero di capolavori della storia del jazz. È interessante come negli ultimi anni sia le citazioni implicite, quindi le derivazioni che si avvertono, quindi dell'influenza che il cool ha avuto nelle nuove avanguardie, anche dopo più di 50 anni della storia del jazz, e anche non solo quelle implicite ma anche esplicite, come in questo caso. È un lavoro interessante e curioso, con risultati a mio avviso decisamente apprezzabili, pur notando anche con una certa tenerezza le limitazioni ormai evidenti, le limitazioni tecniche di Lee Konitz, che ormai ha già superato gli 85 anni. Ascoltiamo alcune delle composizioni di questo disco uscito recentemente. Thank you. L'omaggio di Iverson alle musiche di Tristano diventa anche articolato, a parte che è esplicito, ma proprio anche nei brani diventano come dei momenti di approfondimento di alcuni brani specifici di Leni Tristano, come per esempio l'ultimo che abbiamo sentito, che è un'elaborazione, quasi una citazione da Minor Complex, uno dei tanti momenti compositivi di Tristano, che Tristano utilizzava come una sorta di laboratorio di ricerca di armonie e di percorsi diversi da quelli che erano quelli tradizionali. Quindi un lavoro interessante, sicuramente curioso anche da un punto di vista della scelta artistica di pubblicare un lavoro di questo tipo. Lo ricordo, Ethan Iverson è accompagnato al sax di Lee Konitz e poi dalla ritmica di Larry Granadier e da Georges Rossi. Un lavoro uscito recentemente intitolato Costumes and Matadori. L'ultimo disco, l'ultimo lavoro quantomeno che ascolteremo, sono i Bad Plus registrati al Festival di Saalfelden nel 2011, che avevano un ospite d'onore, perché questo si può definire, che era appunto Joshua Redman. Questa collaborazione con Joshua Redman non è occasionale solo per il festival, sono diversi i concerti che vengono organizzati, anche la tournée, ma sono diverse le occasioni nelle quali Bad Plus si presentano in pubblico con questo sassofonista, e la riprova è anche la capacità di integrazione che Redman riesce ad avere nei temi che sono i temi tradizionali dei Bad Plus. Non ci sono composizioni nuove o composizioni scritte appositamente per questo quartetto. Diventano adattamenti e rielaborazioni di brani famosi, conosciuti, dei quali ne ascolteremo un paio, peraltro. Tra i più rappresentativi e quelli che a mio avviso sono anche di una qualità musicale tra le più elevate e che rappresentano appieno quelle che sono le qualità creative di questi tre notevoli musicisti, che forse vale la pena anche di ricordarne i nomi, perché poi mi rendo conto di non averli ancora citati, che sono, oltre a Ethan Iverson, che abbiamo ascoltato al pianoforte poco fa, e Dave King alla batteria, che abbiamo ascoltato nel primo disco, e Ray Anderson al contrabbasso, con l'aggiunta appunto di Joshua Redman. Ascoltiamo due composizioni che sono la prima di Ray, anzi sono entrambe composizioni di Ray Anderson. Thank you. Questo era il trio dei Bad Plus con l'aggiunta del sax di Joshua Redman, registrati nel 2011 al Festival di Saalfelden, che danno prova anche in questo incontro, un incontro che viene consolidato in diverse altre occasioni, danno prova appunto di un interplay, di una capacità di integrazione notevolissima, un concerto straordinario e quindi anche una proposta di alto livello. Era l'ultimo ascolto per oggi, quindi vi ricordo che la trasmissione e le indicazioni, le informazioni su quello che abbiamo ascoltato le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.